Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti un saluto. Ci ritroviamo nuovamente attorno a queste pagine del Vangelo di Marco dopo esserci fermati nel mese di luglio. Ci eravamo fermati proprio a metà del cammino di Marco, al capitolo 8. E quindi oggi riprendiamo con la grande scena di apertura del secondo capitolo, della seconda parte di Marco, vale a dire il capitolo 9. Come di consueto invito coloro che sono in ascolto e che lo possono fare a prendere tra le mani un'edizione della scrittura e a seguire insieme a me sulle pagine della loro Bibbia il testo che insieme commenteremo. Obiettivo della nostra trasmissione, lo ricordo, è quello da un lato di scavare all'interno del testo per cogliere la ricchezza che si nasconde dietro le parole, dietro la teologia di Marco, dall'altra quello di far dialogare il testo con la nostra vita. Chiedo allo Spirito all'inizio di questa trasmissione di illuminare le mie parole e soprattutto di abitare Lui con il suo soffio di vita le fatiche, le soddisfazioni, le preoccupazioni e le gioie delle giornate e della giornata di oggi di tutti noi, di voi ascoltatori e di me che parlo. Bene, mettiamoci subito in ascolto della pagina di Marco di quest'oggi, siamo al capitolo 9, commenteremo insieme i versetti che vanno dal 2, quindi capitolo 9, versetto 2, fino al versetto 13. Cominciamo ad ascoltare il brano. In quel tempo, dopo 6 giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò su un monte alto, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti divennero bianche a tal punto che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Apparve loro Elia con Mosè e dialogavano con Gesù. Pietro reagì dicendo a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Di fatto non sapeva come reagire. Erano infatti pieni di timore. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e ci fu una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non dire nulla a nessuno di quanto avevano visto, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. Quindi lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, Elia giungendo per primo restaurerà ogni cosa. Come mai allora in merito al figlio dell'uomo sta scritto che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Ebbene io vi dico, Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Eccoci, questo brano che rappresenta un unico episodio può essere scandito in 3 momenti. Se avete ascoltato con attenzione, notate che il primo momento racconta la salita del gruppo sulla cima del monte, il secondo momento il dialogo tra Gesù, Elia e Mosè e la rivelazione che viene dal cielo, il terzo momento la discesa dal monte. Ecco, ognuno di questi momenti ci permette di cogliere un aspetto di Gesù, dell'identità di Gesù, e un aspetto della sequela del discepolato dei 12. Il primo è nella prima scena è in evidenza soprattutto il legame tra Gesù e la sfera divina. lo notiamo dallo splendore delle sue vesti, dall'episodio della trasfigurazione, dalla salita del monte. La seconda scena, quando Gesù dialoga con Mosè ed Elia, colloca Gesù e i discepoli più nel contesto della storia della salvezza, mentre l'ultimo episodio, quel dialogo sul mistero della sofferenza, colloca Gesù e i discepoli nella complessa trama delle vicende umane. Quindi Gesù e i discepoli sono collegati nella prima scena a contatto con Dio, nella seconda scena nella cornice della storia della salvezza e quindi nella storia dell'uomo. Sono questi tre scenari che sono praticamente gli scenari che fanno da sfondo alla nostra vita di tutti i giorni. Ogni giorno noi siamo in contatto con Dio, partecipi della storia della salvezza e immersi nella storia dell'uomo, questi tre scenari fanno da sfondo all'episodio che insieme commentiamo. Allora, cosa possiamo evidenziare di questo racconto di Marco? La prima cosa che vorrei evidenziare sono i richiami antico-testamentari di questa pagina. In altre parole, quando Marco racconta questo episodio, ha in mente, nella sua testa, alcuni episodi che sono avvenuti nell'Antico Testamento e uno in particolare, il dono delle tavole della legge che era avvenuto durante il cammino dell'Esodo. Sono diversi gli studiosi che ritengono che dietro l'episodio della trasfigurazione ci sia il capitolo 24 del libro dell'Esodo. Allora vorrei rileggere insieme a voi alcuni passaggi di questo capitolo 24, vale a dire i versetti da 1 a 2 e da 9 a 18 di questo capitolo. E chi è un pochino più attento a quanto leggeremo insieme noterà che ci sono dei richiami molto evidenti tra questo episodio e l'episodio della trasfigurazione. Ecco, tenete solo presente che il brano dell'Esodo, del capitolo 24 dell'Esodo, è il brano in cui Dio sul monte Sinai dona a Mosè le tavole della legge. Allora, leggiamo questo testo, il capitolo 24 dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nadab e Abiu e 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano. Solo Mosè si avvicinerà al Signore, gli altri non si avvicinino e il popolo non salga con lui. Allora Mosè salì con Aronne, Nadab e Abiu e i 70 anziani di Israele. Essi videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli israeliti non stese la mano. Essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù. Io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto per istruirli. Mosè si alzò, si mosse con Giosuè suo aiutante e salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: restate qui ad aspettarci, fin quando torneremo da voi. Ecco, avete con voi Aronne e Cur. Chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Allora, notate che tra i due episodi, l'episodio di Esodo 24 e l'episodio della trasfigurazione, esistono dei richiami molto evidenti. Il primo richiamo è quello della salita del monte. In entrambi i casi Mosè e Gesù salgono su un monte non ben definito nel caso dell'episodio di Marco 9. Alcuni dicono che sia il Tabor, altri studiosi ritengono che il monte in questione sia invece l'Ermon. Il nome della montagna non viene infatti definita. Un altro elemento che mette in parallelo i due brani sono coloro che accompagnano i due protagonisti. Mosè è accompagnato da tre personaggi, oltre ai 70 anziani di Israele, e questi tre personaggi sono Aronne, Nadab e Abiu. Gesù è accompagnato da tre dei suoi discepoli, che sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Mentre il resto dei discepoli resta sotto la montagna, proprio come il resto dei dodici resta sotto la montagna. Altro tema in comune è il tema della nube, quello della voce, quello della gloria divina, che permettono di leggere sia il brano di Esodo 24, sia il brano di Marco 9 come una grande manifestazione di Dio. Ora, cosa ci dice questo riferimento, questo rimando tra i due brani? Se nel primo brano Mosè sale sul monte per ricevere le tavole della legge, nel brano di Marco l'Evangelista ci sta dicendo che il popolo di Israele non ha più bisogno delle tavole della legge, perché colui che bisogna ascoltare e osservare è il Maestro, è Gesù. In altre parole, la legge che Dio aveva tracciato per dirigere il cammino di Israele, per tracciare la via al popolo di Israele, diventa ora incarnata nella persona di Gesù. Gesù è la legge, Gesù è la via, Gesù è la verità. Lì, sulla scena dell'alto monte, dove si sta dirigendo questo piccolo gruppo rappresentante della comunità dei dodici, lì viene stipulata una nuova alleanza tra Dio e il popolo. Se l'alleanza antica era stipulata sulle tavole della legge, la nuova alleanza viene stipulata nel mistero di Cristo, che è il Maestro per eccellenza. Ecco perché nella tradizione cristiana la memoria di Gesù come Maestro era anticamente associata al brano della Trasfigurazione. Io ricordo nella tradizione della mia famiglia religiosa, io sono un paolino, quindi membro della famiglia paolina, anticamente fino a prima del Concilio, mi dicevano gli anziani che la festa di Gesù Maestro era celebrata il giorno della Trasfigurazione. E questo cosa ci dice? Non fa altro che confermare il messaggio profondo che ci viene da questa pagina del Vangelo di Marco. Marco ci sta dicendo che in Gesù c'è la pienezza del Magistero. Ecco allora che capiamo perché c'è quella sottolineatura al versetto 2 del capitolo 9 di Marco. Marco inizia l'episodio dicendo: dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Molti si chiedono, ma perché ci viene detto dopo sei giorni? Dopo sei giorni significa che siamo al settimo giorno. Perché c'è la sottolineatura del settimo giorno? Gli studiosi dicono che la sottolineatura del settimo giorno non è difficile da spiegare. Nell'episodio Pietro interviene volendo costruire delle tende. Probabilmente l'Evangelista rimanda alla festa delle capanne, la festa delle tende. La festa delle capanne in Israele durava sette giorni e il settimo giorno, dopo i sei giorni di festa, il settimo giorno era caratterizzato, anzi ancora oggi è caratterizzato, da una grande festa, la festa di Simchat Torah viene detto oggi, cioè la festa della gioia per il dono della Torah, per il dono della legge, che viene particolarmente celebrata attualmente nelle sinagoghe portando i rotoli della Torah in danza e in canto attorno alla sinagoga, mentre i bambini più piccoli presenti nell'assemblea si tirano l'un l'altro delle caramelle di cui poi si riempiono le tasche in segno di festa. È la festa per il dono della legge, per il dono della Torah. Ecco allora il richiamo alla festa che richiamava il percorso di Israele in Egitto e nello stesso tempo il richiamo al tema della legge, a quella legge che trova ora compimento in Gesù. Ecco allora il primo forte messaggio che Marco lancia a ciascuno di noi. Gesù non è un rabbì come tutti gli altri, Gesù è il Maestro per eccellenza, colui che diventa la legge da vivere, da seguire, da far crescere dentro di noi. Veramente lui è quello che Giovanni definirà via, verità e vita. Ma c'è un'altra sottolineatura da fare. E l'altra sottolineatura da fare, l'altro richiamo antico testamentario, è legato alle due persone che stanno accanto a Gesù sul monte. Le due persone che stanno accanto a Gesù sono Elia e Mosè. Normalmente noi sentiamo dire che Elia e Mosè rappresentano l'uno la legge, Mosè, l'altro i profeti, Elia. È un'interpretazione sicuramente corretta, ma a mio avviso è anche riduttiva. Cioè, se da un lato è corretta perché effettivamente Elia e Mosè rappresentano la legge e i profeti che trovano compimento in Gesù, dall'altro Elia e Mosè hanno qualcosa d'altro in comune con Gesù. Elia e Mosè sono infatti, prima di tutto, i due grandi uomini di Dio dell'Antico Testamento che hanno avuto una grande rivelazione di Dio sul monte. Proprio come in questo momento, in questo brano, hanno questa grande rivelazione di Dio sul monte Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi Elia e Mosè sono i due profeti che hanno pagato di persona, con la loro esistenza, l'adesione al Dio di Israele. Ricordate Mosè quante volte si rivolse a Dio dicendo: l'ho forse generato io questo popolo, perché il suo peso è così duro da portare? Non solo, ma Mosè non potrà entrare nella terra promessa perché si è caricato di tutte quelle che erano le mormorazioni e i peccati del suo popolo, paga di persona. E lo stesso avverrà per Elia. Elia, che voleva combattere l'idolatria, a un certo punto si troverà a vivere un momento di profonda depressione, fino a invocare la morte, perché vede che non riesce a ottenere la conversione del suo popolo. Non solo, ma nel momento in cui capisce veramente la logica di Dio, Dio gli dirà: fatti da parte e ungi un'altra persona al tuo posto, la persona di Eliseo. Quindi un altro profeta, Elia, che ha pagato di persona. Non solo, Mosè ed Elia sono anche due persone che vivono in due momenti diversi la grande esperienza dei 40 giorni, proprio come Gesù ha vissuto l'esperienza dei 40 giorni. Entrambi hanno una morte che resta avvolta nel mistero. Se voi andate a leggere le pagine del Deuteronomio o le pagine del Libro dei Re, notate come la morte di Mosè e la morte di Elia restano avvolte nel mistero. I loro corpi non vengono più ritrovati. Di Elia si narra il rapimento verso il cielo, ma la tradizione biblica, la tradizione rabbinica, narra anche di un rapimento al cielo verso Mosè. Ecco perché nella tradizione, nei racconti messianici, Elia e Mosè erano i due profeti di cui si attendeva il ritorno per preparare l'arrivo del Messia, perché erano ritenute due persone che non erano mai scese nello Sheol, che non erano morte, ma erano state rapite al cielo. Ora, tutti questi elementi ci permettono di cogliere una profonda sintonia con Gesù. Gesù è colui che pagherà di persona, Gesù è colui che rivela il mistero di Dio, Gesù è colui la cui morte rimarrà avvolta nel mistero, perché con la risurrezione sarà subito rapito da Dio nella gloria divina. Ora, il richiamo quindi a Mosè e ad Elia non è solo un richiamo che ci dice che la legge e i profeti, per trovare la loro pienezza, devono dialogare con il Vangelo, con Cristo. Certo, significa questo, ma ci fa dire come il mistero della sequela che caratterizza i discepoli nei confronti di Gesù, cioè seguire Gesù, significa seguire lo stesso cammino che hanno fatto i grandi personaggi dell'Antico Testamento. In altre parole, i dodici si devono preparare a vivere l'esigente cammino che hanno vissuto Elia e Mosè e che risplenderà in pienezza in Cristo. Dio non vuole dai discepoli di Gesù quello che un rabbi può volere dai suoi discepoli, imparare solo alcune nozioni. Dio vuole dai suoi, dai discepoli del suo figlio, dai discepoli di Gesù, il coinvolgimento nella storia della salvezza proprio con lo spessore, con la passione di coinvolgimento che avevano avuto Mosè ed Elia. E questo è un messaggio veramente forte. Ci fermiamo alcuni istanti per un breve stacco musicale, dopodiché continueremo con la nostra riflessione. Nella nostra quindi riflessione sulla trasfigurazione stiamo notando come sullo sfondo di questo brano ci sono dei riferimenti ad alcune pagine dell'Antico Testamento molto significative. Abbiamo visto la pagina di Esodo 24, quella che riguardava il dono delle tavole della legge sul Monte Sinai, e abbiamo visto poi i riferimenti a Mosè ed Elia che compaiono sul monte accanto a Gesù, in dialogo con Gesù. Ma c'è un terzo riferimento che merita la nostra attenzione, ed è praticamente alla fine del brano che abbiamo ascoltato, quando di fronte alla domanda dei discepoli che dicono perché gli scribi dicono che deve venire Elia, Gesù risponde dicendo: Elia, giungendo per primo, restaurerà ogni cosa. Ma Elia è già venuto e hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Ecco, in che senso qua c'è questo riferimento ad Elia? Questo richiamo ad Elia ci riporta a una pagina del profeta Malachia, è la pagina praticamente conclusiva del suo libro. Al capitolo 3 del libro di questo profeta, di Malachia, i versetti 22 e 24 dicono così: «Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb precetti enormi per tutto Israele». Vedete ancora il riferimento alla legge. «Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio». Ecco, il libro del profeta Malachia, che annunciava i tempi messianici, diremmo noi oggi, si concludeva con il richiamo a queste due grandi figure. Da un lato il custodire, l'invito a custodire la legge che era stata data da Mosè sul Monte Sinai, dall'altra la promessa che un giorno sarebbe venuto Elia. Capiamo allora il richiamo degli scribi, perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia, e la risposta che Gesù dà. Elia è già venuto, quindi lo identifica nella figura evidente di Giovanni Battista, però hanno fatto di lui quello che hanno voluto, cioè l'hanno messo a morte, l'hanno decapitato in prigione. Ecco, perché per noi è significativo il richiamo a questa pagina antico-testamentaria? Perché nella nostra tradizione, qui faccio riferimento soprattutto al canone della Bibbia cattolica, il canone indica la sequenza dei libri biblici. Se voi guardate la vostra Bibbia, notate che nel canone cattolico l'ultimo libro dell'Antico Testamento è il libro del profeta Malachia. Quindi il libro del profeta Malachia rappresenta un po' come una porta che si apre sul mondo del Nuovo Testamento. E questi versetti che noi abbiamo letto, i versetti da 22 a 24 del capitolo 3 di Malachia, costituiscono l'ultima scena di questo profeta. Quindi tutto l'Antico Testamento, se noi facciamo una lettura canonica della scrittura, termina con una porta aperta su questi tre versetti. E vedete, Marco nella grande scena, nella scena madre che sta al centro del suo racconto, risponde a questi tre versetti, dicendo: bene, quello che l'Antico Testamento, a cui l'Antico Testamento orientava i nostri sguardi, Mosè ed Elia, eccolo compiuto qui sull'alto monte, che può essere visibile a tutti e a cui tutti possono attendere. Quindi vedete il grande messaggio che l'Evangelista Marco dà a ciascuno di noi e ovviamente ai lettori che di generazione in generazione hanno letto il suo Vangelo. Oltre a questo, per approfondire ulteriormente l'episodio della trasfigurazione, diventa per noi importante anche coglierlo dal punto di vista anche dei personaggi coinvolti. Noi adesso, in un primo momento, abbiamo visto i richiami all'Antico Testamento. Ora cerchiamo di cogliere quello che succede attraverso i personaggi. I personaggi coinvolti, oltre a Gesù, sono Pietro, Giacomo e Giovanni. L'Evangelista dà particolare attenzione, come è suo solito, alla figura di Pietro. E Pietro emerge in questo brano ancora una volta sotto un'ombra non del tutto positiva. Diversi sono gli elementi che ci dicono quasi la sua incapacità di vivere la scena nel modo giusto. Pietro rappresenta ognuno di noi, in lui noi vediamo riflessi i rischi che corriamo anche noi con la nostra fede. Quali sono gli elementi negativi di Pietro in questo episodio, che vanno accostati all'elemento positivo, quello di lanciarsi per capire, di lanciarsi esprimendo quello che porta dentro, di farsi portavoce anche di chi non parla, ma che si trova nelle sue stesse condizioni? I rischi sono almeno quattro che emergono da questo brano. In primo luogo, il primo rischio è il modo in cui Pietro si rivolge a Gesù, lo chiama Rabbì, lo chiama maestro, però questo modo non è adatto alla scena a cui assiste. L'Evangelista ci dice che appena saliti sul monte Gesù era stato trasfigurato davanti a loro, che le sue vesti avevano raggiunto uno splendore che nessun lavandaio di questa terra avrebbe potuto dare alle vesti lavate, erano talmente bianche ed è ovvio che questo bianco richiama la gloria divina, richiama la sfera della divinità, della trascendenza. C'è una voce che viene dall'alto e che dirà: questi è il figlio mio, l'amato. Ora, di fronte a tutto questo, Pietro si rivolge a Gesù chiamandolo Rabbi, cioè mettendolo, in altre parole, alla stregua, alla pari di tutti gli altri rabbini del tempo. È troppo poco. Il minimo sarebbe stato rivolgersi a Gesù come altre persone all'interno del Vangelo si rivolgono a lui, chiamandolo Kyrios, chiamandolo almeno Signore. Signore è una definizione che almeno rimaneva aperta a un'altra portata, invece si rivolge a lui chiamandolo Rabbi. Ecco, gli esegeti ritengono che questo sia il primo segno di una defaianza da parte di Pietro. Secondo elemento critico è ciò, il suggerimento che fa Pietro. Dopo averlo chiamato maestro, gli dice, fa una proposta: facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. In altre parole, Pietro mette sullo stesso piano Mosè, Elia e Gesù. Non si rende conto che quel dialogo tra le due grandi figure antico-testamentari e Gesù sta ormai dicendo che l'uomo, per accogliere la Torah, deve ormai passare da Cristo. Che tra i tre c'è una distinzione di persone, non sono tutti sullo stesso piano. E soprattutto che quella scena non è fatta per essere incapsulata, ingabbiata, incorniciata, ma deve essere interiorizzata per schiudere tutta una storia alla novità. Terzo elemento è l'altra parte della proposta di Pietro. Pietro dice: è bello per noi stare qui, essere qui. Ecco, la proposta di Pietro di stare sul luogo e bloccare la scena con la costruzione delle tre tende rinnega indirettamente la vocazione dei discepoli. Fin dal capitolo 3 Gesù aveva ben sottolineato che la chiamata, la vocazione dei discepoli è legata a due obiettivi. Il primo è quello dello stare con Gesù, e fin qui Pietro è arrivato, e il secondo è essere inviati da lui, con il potere appunto di cacciare i demoni e di guarire da ogni sorta di malattie e di infermità. Ora, il rischio di Pietro è quello di fermarsi alla prima parte, dimenticando che stare con Gesù significa già essere inviati, perché Gesù è colui che costantemente si mette in cammino, fin dal primo istante della sua vita. L'identità di Gesù è di compiere un cammino esodale, quello di lasciare la divinità, spogliarsi della divinità per divenire in tutto simile a Dio, spogliandosi di se stesso. Ecco, questa identità di Gesù che è l'amato da Dio, ma proprio per questo è colui che si mette in cammino verso l'umanità, fa parte del discepolo e Pietro rischia in questo momento di dimenticarlo. Quarto elemento di rischio lo notiamo dal commento che subito dopo fa l'Evangelista. L'Evangelista commenta al versetto 6 dicendo: di fatto Pietro non sapeva come reagire. erano infatti pieni di timore. Ecco allora l'elemento della paura, del timore, che non permette ai tre, e in particolare a Pietro, di vivere a fondo la scena che stanno sperimentando. Accanto a questo c'è la personalità dei tre discepoli. I tre discepoli che, mentre scendono dal monte, di fronte alla richiesta di Gesù di non dire niente a nessuno di quello che avevano visto e udito, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti, ci viene detto al versetto 10, tennero per sé la cosa, domandandosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E allora qua siamo di fronte a un grosso rischio. I tre discepoli rischiano di non capire l'elemento cruciale del discepolato, l'elemento cruciale di quella che sarà l'incipiente fede cristiana, la risurrezione. Hanno vissuto già l'esperienza del ritorno alla vita di alcuni durante il ministero pubblico di Gesù, ma non sono ancora riusciti a capire cosa Gesù intenda per risurrezione dei morti. E quindi sfugge loro il significato della trasfigurazione, perché che cos'è la trasfigurazione se non un anticipo dato sul monte di quello che sperimenteranno presto nel giardino del Golgota, davanti al sepolcro vuoto. Non è altro che l'anticipo del mistero della risurrezione. Quindi vedete come i protagonisti coinvolti in questa scena rischiano di smarrire gli elementi chiave di Gesù. Ora tutto questo, cari ascoltatori, non è lontano dalla nostra esperienza di fede, perché in fondo il rischio di Pietro e il rischio dei tre discepoli prediletti altro non è che il rischio che corriamo noi nel vivere la nostra fede. Vi dicevo, Pietro rischia di scambiare Gesù per un semplice rabbi, un rabbi come tutti gli altri. Guardate che oggi non è lontano da noi il rischio di prendere Gesù come, ok, un profeta, un grande sapiente, ma non molto di più. In un mondo che è caratterizzato dal confronto con le altre culture, con gli altri testi religiosi, con le altre tradizioni religiose, a volte si leggono scritti di credenti, io capisco per un non credente, ma per un credente no, scritti di credenti che mettono Gesù sullo stesso piano dei sapienti, sullo stesso piano di qualche profeta di altra tradizione. Ma il Vangelo ci dice: non possiamo fermarci qui. Gesù non è un rabbi come tanti altri, non è un predicatore solitario o un predicatore itinerante, come ce ne potevano essere nel primo secolo. Gesù è molto di più, Gesù è molto di più. Oppure il rischio del stare qui dimenticandosi di essere inviati. La fede ci porta sempre a un'esperienza di cammino, ci porta sempre all'incontro con l'uomo. Stare con Gesù non significa chiudersi in una piccola nicchia dove ci sono io e il mio Gesù. No, la fede cristiana è una fede che ci spinge oltre, perché nel momento in cui io voglio vivere sulla vita di Cristo, nel momento in cui io voglio stare con Gesù, se il Gesù con cui io sto è veramente il Figlio di Dio, questo Gesù è una persona che compie costantemente un cammino esodale e quindi spinge anche a me, suo discepolo, a uscire per compiere un cammino esodale, uscire incontro all'uomo e incontro al Padre suo che è nei cieli. Ecco queste due dimensioni che sono sempre unite. Ma soprattutto il terzo rischio che noi corriamo è oggi quello di dimenticare l'elemento vitale della nostra fede. Dimenticare la risurrezione. Guardate, sono rimasto molto colpito alcune settimane fa quando in una libreria religiosa ho visto che era venduto un libro, La breve storia delle religioni, se non erro, un libro edito dall'editrice Salani, dove vengono presentate le diverse religioni. Ecco, aprendola sulla religione cristiana, sul cristianesimo, bene, veniva descritto il cristianesimo, prima di tutto veniva descritto Gesù come un saggio, ci sono stati tanti saggi nella storia, bene, c'è stato anche Gesù, un saggio come tanti altri, che magari ha più avuto successo degli altri, però non veniva distinto più di tanto. E poi si diceva a chiare lettere che la risurrezione è stata nella tradizione cristiana qualcosa che si è imposto solo a partire dal terzo secolo, secondo e terzo secolo, qualcosa che non faceva parte dell'esperienza dei primi cristiani, che sarebbe venuta dopo per imporre una religione che stava avendo sempre più piede all'interno ovviamente di altre tradizioni religiose. Bene, qua significa rinnegare la perla chiave dell'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana e il discepolato cristiano si regge su alcuni principi base che sono il principio dell'incarnazione, la risurrezione di Gesù, la Trinità. Ma dei primi due, incarnazione, risurrezione di Gesù, sono due elementi sorgivi che stanno alla base dell'esperienza cristiana. Paolo stesso, predicando alle prime comunità, dice: se non ci fosse la risurrezione, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini e sarebbe vana la nostra fede, altro che costruzione del secondo e del terzo secolo. E vediamo qui come nella narrazione di Marco la risurrezione viene posta proprio al centro della narrazione del Vangelo, nel cuore di questo episodio, l'episodio della trasfigurazione, che ci mostra come Gesù annuncia già ai suoi qualcosa che i suoi per il momento non capiscono, ma che si troveranno a capire in quel primo giorno dopo il sabato. Ora, questo testo, in vendita in alcune librerie, nelle librerie laiche, ma anche in alcune librerie religiose, bene, è un testo di oggi, è un testo che è uscito nel servizio novità di luglio 2011, e vedete come l'insidia in cui rischiavano di cadere i primi discepoli è qualcosa che interpella anche noi oggi. E allora il Vangelo, se noi lo sappiamo leggere, lo leggiamo con attenzione nei suoi risvolti più significativi, notiamo che ci porta a contatto con gli elementi fondali che stanno alla fonte della nostra esperienza di fede. E veniamo a un'ultima riflessione. Abbiamo visto insieme i riferimenti dell'Antico Testamento che sono legati all'episodio della trasfigurazione, alcuni protagonisti, come reagiscono Pietro e i tre discepoli prediletti, e questo ci deve dare anche speranza. A volte noi non capiamo tutto, ma se seguiamo Gesù, Gesù ci farà lentamente cogliere le profondità del suo mistero. E adesso vorrei chiudere questo commento all'episodio della trasfigurazione richiamando ciò che precedeva questo episodio. Se ricordate, prima della salita sul monte, Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli chi era lui secondo la gente. E i discepoli avevano riportato tre risposte. Secondo la gente Gesù era Giovanni Battista, che era tornato in vita, altri dicevano che era Elia, altri dicevano che era Mosè o uno dei profeti. Ora, l'episodio della trasfigurazione, pur venendo dopo, fa capire ai discepoli che le tre risposte della gente erano tutte e tre delle risposte sbagliate. Perché? Gesù non può essere Giovanni Battista, perché alla fine dell'episodio Gesù dirà: Giovanni Battista è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, cioè l'hanno messo a morte. Quindi non c'è un secondo Giovanni Battista che deve tornare in vita. Non è Elia per il semplice fatto che Elia compare accanto a Gesù e parla con lui. Non è Mosè e nessuno dei profeti, perché non solo Mosè parla con lui, ma la voce che viene dal cielo dichiara: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quindi l'identità di Gesù è quella di essere figlio di Dio ed è lui la persona che bisogna ascoltare. L'episodio di Esodo 24 non terminava solo con la consegna delle tavole della legge, ma con l'invito fatto a Israele ad ascoltare e a custodire tutto ciò che era condensato nelle tavole della legge. E l'alleanza sarà siglata nel momento in cui il popolo ai piedi del monte dirà: tutto ciò che Dio ci ha ordinato, noi lo faremo e lo ascolteremo. E questo è il modo in cui Israele sigla l'alleanza con Dio. Ora sul monte avviene la stessa cosa. Gesù viene dichiarato figlio di Dio, l'amato, l'amato richiama anche qua altri episodi dell'Antico Testamento, il figlio di Dio, l'amato, è lui che bisogna ascoltare. E quindi il popolo di Israele e ogni discepolo entra nella nuova alleanza nel momento in cui risponde a questo ascoltando la parola di Dio. E qua mi viene spontaneo il richiamo a uno dei testi del Vangelo che veniva proposto nei giorni scorsi, quando nel racconto della parabola del seminatore, di fronte all'ultima porzione di seme che porta frutto, dove il 30, dove il 60, dove il 100 per 1, Gesù commenta dicendo: questi sono coloro che ascoltano la parola e l'accolgono con cuore integro e buono. Ecco, mi sono soffermato quel giorno in cui c'era questo brano in preghiera proprio su questo versetto, su questo inciso. Non basta ascoltare la parola di Dio, bisogna ascoltarla con cuore integro e buono, cioè quella integrità che dice la semplicità della persona, no? E dall'altro quella bontà che è in qualche modo partecipazione al cuore buono di Dio. Solo nel momento in cui noi ascoltiamo così la parola di Dio, con cuore integro e buono, questa parola può portare effetto dentro di noi e quindi può farci entrare in quella nuova alleanza che non solo ci rende coprotagonisti di Gesù nella storia della salvezza, ma schiude, apre la nostra vita a quella fecondità che ci è stata trasmessa. Ora facciamo un secondo stacco musicale prima di lasciare spazio alle vostre domande. Voi sapete che a questa seconda parte io tengo molto. Sono convinto che la ricchezza della parola di Dio si schiude non solo alla luce del mio commento, ma alla luce anche delle riflessioni che nascono a partire dalle vostre domande. Spero quindi che questa pagina possa aver suscitato qualche interrogativo e ora, dopo questo stacco musicale, resterò in ascolto di ciascuno di voi. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Rocco di Torino. Prego. Allora, io volevo mettere in evidenza la scrittura che si trova nel Vangelo di Giovanni, in cui Tommaso, non credendo che Gesù fosse apparso, la seconda volta, quando mette le dita nelle piaghe, nel costato e nelle mani, si inginocchia e riconosce in Gesù la divinità, dicendo: mio Signore e mio Dio. Sì. Quindi, di conseguenza, non c'è nessun dubbio che Gesù è Dio. E non come dice tanta gente che Dio nessuno l'ha mai visto, il Padre, però come ha detto Gesù stesso nelle scritture, chi ha visto me ha visto anche il Padre. Sì, ringraziamo questo nostro fratello di Torino che ci richiama a questo episodio. Effettivamente siamo su un altro Vangelo, il quarto Vangelo, ma l'episodio ci riporta in qualche modo alla stessa conclusione che abbiamo tratto ascoltando l'episodio della trasfigurazione nel Vangelo di Marco. Da un lato abbiamo tutto il tema del dubbio, ricordate quando Tommaso torna la prima volta dai discepoli nel cenacolo, i discepoli dicono che hanno avuto l'apparizione del risorto e egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Era una presa di posizione molto dura, tra l'altro è la prima volta che la comunità dei dodici annuncia e il primo annuncio dei dodici è un annuncio fallimentare. Tra l'altro la cosa più triste è che è fallimentare perché cade proprio su uno di loro. Quello che dovrebbe essere più aperto è quello che li blocca, che li disarma. Ebbene, subito dopo, la scena di Gesù che riappare ai dodici, tra l'altro i dodici dopo questa loro sconfitta restano ancora chiusi nel cenacolo, non osano avviarsi sulle strade del mondo, dove pur Gesù li aveva inviati. Ebbene, questo Gesù paziente che torna da loro, che si mostra a Tommaso, che a questo punto crolla ai suoi piedi dicendo: mio Signore, mio Dio. E qui vedete, Tommaso non lo chiama Rabbi, ma lo chiama Kyrios e Theos, cioè utilizza nei suoi confronti due titoli che dicono la manifestazione di fede più grande. Ora, questo viene posto a culmine del quarto Vangelo. Tutto il quarto Vangelo sottolinea la profonda unione tra il Padre, quindi tra Dio, e il Figlio Gesù, mostrando come nell'incarnazione la divinità e l'umanità diventino tutt'uno. Notiamo nel quarto Vangelo una maturazione nella riflessione anche sulla fede dei primi cristiani, una maturazione che è ancora in nuce nel Vangelo di Marco, che però, pur essendo solo in nuce, sottolinea anche lui da un altro punto di vista la stessa idea, lo stesso concetto. Quindi grazie al nostro amico di Torino perché ci ha permesso di notare come questi elementi si ritrovano nei Vangeli, che fanno da pilastro della nostra professione di fede, della nostra sequela. Pronto, buonasera. Sì, sono Salvatore, Don Giacomo, mi sente? La sento bene, Salvatore, mi dica. Sì, grazie, sono in viaggio. Ascolti, Don Giacomo, faccio la domanda riguardo la salvezza di noi, delle nostre anime, di noi tutti, riguardo una persona che non si è, cioè, impressionato, anche adulta, nell'ultimo giorno, quale strada prenderà? Allora, sì, grazie. La ringrazio, grazie a lei. Sì, la ringrazio, Salvatore, di questa domanda che forse non è strettamente in sintonia con la pagina che abbiamo ascoltato, però tento di dare una bozza di risposta, pur cosciente che esigerebbe un approfondimento. Allora, noi non possiamo in questa vita giudicare nessuno, Non ci è dato il permesso di giudicare nessuno, possiamo da parte nostra dare una buona testimonianza di fede, ma se una persona non viene battezzata, non viene cresimata, non riceve i sacramenti, lascia la frequentazione della comunità cristiana, tutte queste manifestazioni non le possiamo giudicare, cioè Dio sa, Lui solo sa, Lui che ha in mano i cuori e le coscienze delle persone, che le conosce molto più in profondità di ciascuno di noi. Quindi non possiamo dire adesso che via prenderanno dopo. Affidiamo queste persone al Signore, alla sua misericordia, però da parte nostra mettiamo tutte le energie per non solo dare la testimonianza di una vita di fede, ma anche comunicare la bellezza della fede, mostrare come credere in Dio non significa vivere una vita, tra parentesi, ma vivere una vita in pienezza, dove si tolgono le parentesi e si dà spazio all'azione dello Spirito perché egli possa compiere in noi la pienezza a cui ciascuno di noi è destinato. Grazie, Salvatore, della tua domanda. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sì, con chi parlo? Sono Maria da Milano. Mi dica, signora Maria. Allora, volevo dirle che lei ha parlato del Monte Tabor, dove Pietro ha detto: bello stare qui, giusto? Esatto. Allora, io credo, adesso lei dopo ve lo dirà, che in quel momento Gesù ha fatto già vedere la sua trasfigurazione della resurrezione. Cioè, nella trasfigurazione c'è già la resurrezione di Cristo. Per questo i tre apostoli hanno detto: è bello stare qui, perché era già nella bellezza, nella grazia e nella resurrezione. Per quanto riguarda il mandato poi a tutti noi, che non potevano rimanere lì perché Gesù non era ancora morto, non era risorto, e noi dovevamo annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Perciò io credo che dobbiamo fare quello, cioè, che vuole Lui, ci manda dove vuole Lui, non dove vogliamo noi. Questa è la domanda, la ringrazio e la sento per radio. Grazie. Cara signora Maria, lei mi ha fatto una domanda molto interessante, oltre che direi molto provocatoria per il nostro cammino di fede, perché lei ha pienamente ragione, il Signore qui ricorda ai Suoi discepoli che devono andare dove vuole Lui, non dove vogliono loro, e questo è facile a dirsi, ma difficile a viversi, perché a volte noi vogliamo andare dove vogliamo noi, invece il Signore ci conduce altrove. Ma riprendo alcune sottolineature che lei ha fatto. La prima sottolineatura era un inciso che mi diceva, lei ha parlato del Tabor, ecco, io ho tenuto a sottolineare questa cosa che mi preme ribadire, no? E il Vangelo di Marco non parla di Tabor, parla del Monte Alto, e questo è importante tenerlo presente, sembrerà una cosa secondaria, ma è importante tenerlo presente perché non, la tradizione poi identificherà questo monte con il Tabor, ma c'è tutta una tradizione di commentatori cristiani che ritengono che questo monte sia l'Hermon, il monte innevato nel nord di Israele. E quindi quello che i visitatori della Terra Santa in genere identificano o ricordano al Tabor potrebbe essere avvenuto altrove, ma questo solo per inciso, che richiama appunto anche il Monte Sinai. Mentre merita un approfondimento quello che lei faceva notare di fronte alla reazione di Pietro. Pietro dice: è bello per noi stare qui. E Gesù gli ricorda che il discepolo non è chiamato a stare qui. Ed effettivamente il finale dell'episodio che abbiamo commentato compie la risposta che Gesù dà a Pietro, perché quando i discepoli scendendo chiedono riguardo ad Elia, Gesù risponde dicendo: sì, Elia giungendo restaurerà ogni cosa, punto. Poi Gesù dice a loro, ai discepoli: come mai allora in merito al figlio dell'uomo sta scritto che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Altro che stare qui a contemplare la trasfigurazione. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere disprezzato. Poi Gesù conclude: ebbene io vi dico, Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui, cioè di Elia, quello che hanno voluto, come sta scritto di lui, cioè come sta scritto del figlio dell'uomo. Cioè Elia, nella figura di Giovanni Battista, ha dovuto soffrire molto ed essere disprezzato, come è scritto del figlio dell'uomo. Quindi, e questo lo dice mentre li porta giù dalla montagna. È significativo, non basta stare sul monte a contemplare il mistero della trasfigurazione. Noi siamo veri discepoli quando, dopo aver contemplato sul monte, sappiamo scendere per vivere quel mistero, che è anche un mistero di disprezzo e di sofferenza. Però, fratelli e sorelle miei che mi ascoltate, è molto più facile stare sul monte che non scendere e vivere questo mistero. Cioè, bisogna essere veramente carichi di quell'ascolto, di quel silenzio, di quella contemplazione del mistero di Dio per vivere la nostra vocazione fino alla spogliazione. E guardate, questa scena, vi dicevo, è posto proprio come una perla al centro del racconto evangelico, perché dopo questa scena inizia la grande discesa di Gesù. È una salita geografica verso Gerusalemme, però è una discesa dal nord al sud, dalla Galilea alla Giudea, e soprattutto è una discesa verso quel destino di disprezzo e di morte che attenderà Gesù a Gerusalemme sulla croce. Grazie di cuore Maria per questa domanda, perché veramente ci ha portato a cogliere un aspetto importante che non era emerso durante il commento. Grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Don Giacomo, sono Marco da Bologna. Volevo chiedere una cosa, ha detto prima che Pietro dimostra la sua pochezza, se vogliamo, perché chiama Gesù rabbì. Ecco, come spiegare questo, visto che poco prima, prima, in seguito alla domanda di Gesù, voi chi credete che io sia, era stato proprio Pietro a dire: tu sei il figlio di Dio l'Altissimo. Esatto, sì. Allora, e quindi Pietro adesso qua torna indietro e lo chiama solo Rabbì, ecco, lo squalifica. Grazie Marco. Ascolto per radio, grazie. Sì. Grazie Marco di questa domanda, è un'altra domanda molto interessante e che ci permette di approfondire proprio un aspetto. Allora, Pietro in genere, gli interventi di Pietro in genere sono caratterizzati da una duplicità. Da un lato, da parte di Pietro, c'è lo slancio di chi riconosce, in genere per un dono che viene dall'alto, la grandezza di Gesù, dall'altro il contrasto, il non riuscire a cogliere quello che poi questo vuol dire, cioè le ricadute concrete di tutto questo. Giustamente il nostro ascoltatore ci fa notare che di fronte alla domanda di Gesù Marco aveva dato una risposta molto precisa: tu sei il Cristo, quindi non uno che deve venire a preparare la strada al Messia, tu sei il Messia, quindi in questo la risposta di Pietro era stata precisa, mirata. Però già al capitolo 8, subito dopo questo episodio, l'Evangelista ci aveva raccontato che Pietro aveva fatto due passi indietro, perché nel momento in cui Gesù aveva anticipato a Pietro il destino che lo attendeva, che era sempre un destino di dolore, di sofferenza e di morte nell'annuncio del mistero pasquale, Pietro lo aveva preso in disparte e lo aveva rimproverato. Tra l'altro l'Evangelista, dicevamo la volta scorsa, utilizza per indicare il rimprovero il verbo dell'esorcismo. Aveva quasi voluto esorcizzare Gesù da uno spirito nemico che gli ispirava questi pensieri. Ora, nella scena della trasfigurazione si manifesta un qualcosa di simile. Cioè Pietro è ammesso alla grande scena, riconosce di trovarsi di fronte a qualcosa di grande, al punto tale da voler bloccare la scena, però nello stesso tempo non riesce a fare il passo che ha fatto prima, si ferma a Rabbi. Ha paura, probabilmente, di quello che del risvolto che questa scena può nascondere, come era successo prima. La conferma di questo ci viene proprio dalla domanda e dallo scambio che ci sarà con i discepoli mentre scendono dal monte, che riguarda ancora quel mistero di sofferenza. E allora, quello che l'Evangelista sembra dirci, ed è anche il motivo del silenzio che Gesù impone loro, quello che l'Evangelista sembra dirci è che non è immediato cogliere in profondità l'identità di Gesù. Riconoscere in Gesù l'incarnazione di Dio è una cosa enorme, che noi stessi, battezzati, osservanti, credenti, a volte facciamo fatica a interiorizzare fino in fondo, perché se ci credessimo fino in fondo, ma guardate che questo elemento di fede, ma rivoluziona la vita, rivoluziona il modo di vivere la storia. Tutti i credenti dovrebbero essere dei fermenti vivissimi, scomodi, dinamici all'interno delle comunità cristiane, se dovessimo cogliere con forza il significato nascosto dietro di questo. Il rischio è che, come Pietro, ci fermiamo anche noi a un primo livello. Gesù è Rabbì, il maestro, un maestro, senza cogliere però che è molto di più di questo. In Gesù c'è la pienezza della divinità fatta carne, il Dio che è ancora alla ricerca dell'uomo, che continua a dire: dove sei, da quei primi passi del giardino nella Genesi. Grazie quindi Marco per la tua domanda, perché anche questo ci ha permesso di completare la nostra riflessione. Pronto, buonasera. Buonasera, mi sente? Mi chiamo Luigi, sono in viaggio. Sì, mi dica Luigi, bello sentire questi viaggiatori che sono sintonizzati con noi, grazie. Ma di fronte al bagliore di Gesù, alla luce di Gesù, ai discepoli viene in mente di racchiudere questa luce nelle tende. C'è una spiegazione tecnica, non lo so, ecco, una mia curiosità, grazie. Sì, allora caro Luigi, questa domanda mi evoca in me un altro passaggio dell'Antico Testamento, un passaggio se vogliamo al contrario. Per cui prima evoco questo passaggio che ha per protagonista Abramo e poi torno a illustrare la sua domanda. Non so se i nostri ascoltatori ricordano la grande promessa di Dio fatta ad Abramo. Dio ad Abramo promette tre cose: la benedizione, la discendenza e poi la terra. Tre espressioni che poi si richiamano l'una all'altra e che potrebbero diventare una sola, ma che sono tutte esplosione della grandezza di Dio. Bene, passano gli anni, Abramo non vede realizzarsi nessuna di queste cose e a un certo punto il racconto della Genesi ce lo fotografa, per così dire, all'interno della sua tenda, che mugugna, che brontola, che si deprime. E di fronte a Dio che gli si fa presente, gli ricorda queste tre promesse, Abramo brontola chiuso nella sua tenda dicendo: ma gli anni passano, ma tu non mi stai dando niente. E allora lì Dio fa una cosa stupenda, perché dice ad Abramo: esci dalla tua tenda, guarda in alto le stelle, esci sulla sabbia, sulla spiaggia, conta la sabbia del mare, tale sarà la tua discendenza. Cioè la promessa di Dio non si traduce solo in due immagini: le stelle del cielo impossibili da contare, la sabbia del mare impossibile da contare, ma in un cammino che è l'uscita da quella tenda che puzza di capre perché Abramo è un beduino, da quella tenda che è uno spazio chiuso. Bene, Abramo viene portato fuori e messo sotto la grande tenda celeste, la tenda immensa che nessuno può contare. Ecco, il rischio di Abramo è lo stesso rischio che corre, a mio avviso, Pietro. Pietro, di fronte alla grandezza della rivelazione, siamo sulla cima di un monte, davanti al mondo intero, siamo di fronte allo splendore, a quel bianco che ci diceva Marco, nessun lavandaio della terra potrebbe rendere le vesti così bianche. Bene, di fronte a tutto questo, al posto di lanciarsi in un rendimento di grazie e di lode a Dio, cosa fa? Chiude tutto in una tenda. Vorrebbe costruire la tenda, vorrebbe celebrare, continuare a celebrare la festa delle capanne, senza rendersi conto che lì, sul monte, la festa delle capanne giunge al compimento, perché non viene data una Torah, una legge, ma viene consegnato all'umanità il Figlio di Dio nella sua pienezza. E il rischio di Pietro, come vi dicevo, è lo stesso rischio nostro, quello di trasformare la fede in un quadro da appiccicare. A volte io invito coloro a cui parlo o nelle omelie di stare attenti a non confondere Gesù con i quadri dei crocifissi, dei sacrocuori, tutte queste cose vanno bene, ma come richiamo a un oltre? Ci devono aprire al mistero. Il nostro Dio è più grande di ogni nostra rappresentazione. E guai a noi quando vogliamo chiudere il mistero di Dio nella cornice di un quadro, negli spazi limitati di una cappella, negli ambiti di un'esperienza che può essere la mia esperienza, ma è solo la mia, piccola. E quando non apriamo le cornici al confronto, non apriamo gli spazi all'accoglienza, non apriamo gli ambiti della nostra esperienza alla ricchezza che ci viene dagli altri. Ecco, è il rischio di ogni uomo, di ogni donna di fede, è sempre il rischio che vedi, Marco ci racconta con estrema semplicità, ma è un rischio antico che aveva vissuto a suo tempo già Abramo. Dio ci porta sempre fuori dalle nostre tende. Grazie Luigi per questa domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Sono Mario da Savona, Don Giacomo. Bene Mario. Complimenti per la grande conoscenza che ha Don Giacomo. Dica pure. Ecco, chiedevo questo, come diceva lei, che quando i discepoli disse: vuoi che rimaniamo su questo monte? Sì. Facciamo tre tende e vediamo che appena dice dietro questa parola una nuvola copre Mosè ed Elia, e una voce che dice: ascoltate e lasciate perdere Mosè ed Elia, dovete ascoltare solo mio figlio. E come diceva lei, Dio non vuole che noi ci chiudiamo in una nicchia, oppure questi conventi e tante altre cose, perché Gesù ha detto ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo. E poi l'altra domanda è questa: cosa ne pensa lei di queste apparizioni? Perché in una apparizione a Medjugorje fanno vedere alla televisione che la Madonna ha detto: fatevi una statua della mia immagine, mettetevela nelle case, nelle chiese, nelle piazze, adoratemi. Allora, grazie Mario di questa tua domanda, sto annotando alcuni aspetti che mi hai detto e non ho fatto a tempo, ecco. Alcuni elementi di questa tua domanda, dove hai fatto un po' una parafrasi dal testo, quindi ti dovrò un attimo riprendere quello che tu hai detto con alcuni correttivi. Spero di rispondere con chiarezza a quelli che sono stati i tuoi quesiti. Prima di tutto, fai notare che mentre Elia e Mosè dialogavano con Gesù, a un certo punto venne una nube che li coprì con la sua ombra, e ci fu una voce dalla nube che disse: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Allora, la nube, come vedi, non dice lasciate perdere Mosè ed Elia, la nube punta l'attenzione su Gesù. È un Gesù che è in dialogo con Mosè ed Elia, quasi a dire che la scrittura antica, da questo momento in poi, deve confrontarsi con la figura di Gesù, ma non viene lasciata da parte. La nube non dice oramai Elia e Mosè non ci interessano più, anzi Elia è addirittura importante per Gesù nel momento in cui scende dal monte per far capire quello che sarà il suo destino e quello che è stato il destino di Giovanni Battista. Importante questa sottolineatura. Mosè ed Elia mantengono tutta l'importanza che hanno nella storia della salvezza, vengono solo messi in relazione con la figura di Gesù. Il riferimento alla nube è importante, perché il riferimento alla nube richiama tanti passi dell'Antico Testamento dove sia la nube che l'ombra sono segno della presenza di Dio. Nel cammino lungo il deserto, ad esempio, la nube è ciò che assicura la salvezza di Israele prima del passaggio del Mar Rosso. Una nube si pone tra Israele e l'esercito del Faraone, dando luce ai primi e tenebre negli altri, permettendo ai primi la salvezza, agli altri e assicurando agli altri la sconfitta. Durante il cammino dell'Esodo chi scandisce le tappe è la nube, quella nube da cui il popolo sente la voce di Dio, e addirittura la nube indica la presenza di Dio nel Tempio, nella tenda del convegno, cioè la nube è un indicatore che fa capire la presenza di Dio sulla scena, quindi questo elemento è importante. È un richiamo, in altre parole, alla presenza di Dio, alla trascendenza, alla Shekinah, alla gloria divina. Un altro elemento che emergeva nella sua domanda è, lei diceva, ecco, Pietro ha la tentazione di costruire le tre tende, lei Don Giacomo ha detto di non chiudersi nelle tende, di non chiudersi nei conventi. Ecco, questa seconda parte non l'ho detto, non ho detto di non chiudersi nei conventi, altrimenti anche la mia vocazione non avrebbe quasi significato. Uno può essere, caro Mario, può essere dedito alla vocazione di Dio più radicale, come può essere la vocazione di una claustrale ed avere il cuore aperto al mondo più di chi viaggia giorno e notte per business, te lo assicuro. Quello che Gesù non vuole, quello che Dio non vuole, è che noi chiudiamo la ricchezza della nostra fede nella tenda del nostro piccolo io, ma la apriamo al cuore di Gesù. E per aprire il cuore di Gesù bisogna proprio stare in contemplazione con Lui. Io penso che alcune esperienze radicali come quelle della vocazione religiosa, come quelle dei conventi, hanno senso solo in questa misura. Se un religioso, una religiosa contempla Dio fino al punto da rendere il suo cuore largo come quello di Dio, la sua vita ha senso. Ma se perde questo, può girare a destra e a sinistra, può essere come un'ape che si posa su mille fiori, ma non porta nessun frutto, perché il suo cuore è piccolo come la tenda del suo io. E invece no, il cuore del credente deve avere gli spazi grandi, gli spazi del mondo. Poi c'era il terzo aspetto della sua domanda che riguardava l'aspetto delle statue, no? Delle sculture che ci richiamano, e lei faceva riferimento alle apparizioni di Medjugorje. Io credo che dietro queste esperienze ci sia veramente il dito di Dio, dietro queste esperienze c'è un mistero di Dio che attraversa la storia e che dobbiamo essere proprio attenti a discernere bene, c'è un segno dei tempi da cogliere, da non lasciare sfuggire. Quando ci viene detto di costruire una statua, ovviamente la statua non vuole racchiudere questo mistero, ma richiamarlo. Il problema non è la statua, il quadro, ma l'uso che noi ne facciamo. Quello che tenevo a sottolineare nella mia esposizione era proprio questo. Non cerchiamo di incorniciare il mistero di Dio in qualcosa di piccolo. Le statue, i quadri, tutti gli elementi che ci ricordano Dio sono un invito a guardare oltre, sono come le stele memoriali che il popolo di Israele lasciava durante la sua storia, perché venivano erette quelle stele di pietra. Le stele di pietra erano utilizzate anche dai popoli pagani, ma per Israele quell'oggetto acquisiva un significato molto più grande, era il segno del passaggio di Dio nella sua storia, era un segno memoriale. Ecco, questo è il significato che hanno le statue dei santi, della Beata Vergine Maria, sono le stele memoriali che ci ricordano che Dio passa nella nostra storia e lascia il segno. E questi segni, queste sculture hanno significato nella misura in cui ci ricordano questo. Quindi sono qualcosa di molto più grande dell'oggetto in sé, richiamano un mistero. Ecco, spero di aver dato una risposta chiara. In ogni caso davvero grazie anche a te Mario per questa domanda che sicuramente aiuta tanti di noi, tanti nostri ascoltatori. Pronto? Pronto, buonasera. Parla con Loredana di Ancona. Bene Loredana. Sì, io volevo porle questa questione di cui abbiamo discusso in parrocchia. L'episodio di Gesù con la cananea, che come atteggiamento di Gesù balza all'occhio per la sua durezza, possiamo dire. E se ne è parlato, ma in termini che non mi hanno completamente convinto, nel senso che si è detto da parte di alcuni della nostra comunità che siccome Gesù assume in sé la divinità ma anche l'umanità, è come se la sua divinità fosse in corso di divenire, è come se nella sua stessa vita imparasse a trarre gli insegnamenti da questa divinità, e quindi l'atteggiamento duro nei confronti della cananea ma anche degli apostoli che gli dicono: maestro, che figura stiamo facendo, ma maestro vedi che questa è disperata, eccetera eccetera, fosse quasi una sua vera durezza, e che poi fosse solo l'insistenza a fargli cambiare idea. E non so se ho reso bene l'idea. Comunque io penso invece che la divinità di Gesù sia stata completa sempre, dal momento in cui è stato concepito, durante tutta la sua vita in maniera piena, e non che la sua umanità potesse diminuire tutta la forza della sua divinità, e con questo le facoltà che la divinità possiede, ossia la sapienza e tutto ciò che è divino. E quindi questo atteggiamento, questa circostanza della cananea che gli corre dietro e lui dice, sappiamo come risponde, non è per te, io non sono per te ma per gli altri, eccetera, in realtà è un modo per attrarre. Cioè lui lo fa apposta, diciamo così, a fin di bene. È un atteggiamento, ritengo, che ha voluto con questo lui scaturire questa insistenza vera, far capire la preghiera insistente, nel senso di la preghiera convinta, dare un esempio ai suoi di come una pagana fosse capace di dare un esempio vero di preghiera convinta. Allora, la ringrazio Loredana per il suo intervento che ci permette di fare anche qui alcune riflessioni aggiuntive. Prima di tutto penso sia importante richiamare un attimo il testo che lei ha menzionato, il testo della Cananea o Sirofenicia. Nel racconto di Marco viene chiamata la Sirofenicia. Vi leggo alcuni versetti. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Quella donna era di lingua greca, di origine sirofenicia o cananea. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Allora, per capire questo episodio, lei, signora Loredana, ha evidenziato alcuni aspetti, la preghiera, il tema della divinità di Gesù. A mio avviso l'elemento chiave di questo episodio sta altrove. Noi siamo in un momento della narrazione in cui Gesù sta cercando di far capire ai suoi discepoli che è importante aprirsi al mondo pagano e portare l'annuncio del regno al mondo pagano. Solo che non riesce a convincerli. Ci ha provato una volta mandandoli in barca da soli e la barca è tornata indietro. Ci ha provato un'altra volta cercando di imbandire una mensa insieme a loro, però ci sono state delle reazioni negative. Ora li sta conducendo lui, come maestro, li sta conducendo nei territori pagani. Ed ecco che appena entra nel territorio pagano, dopo tra l'altro una discussione con i farisei proprio sulle norme di purità, che erano quelle che bloccavano l'accesso ai pagani, appena entra nel territorio pagano, ecco entrare in scena questa donna. La reazione di Gesù, la prima reazione di Gesù, è la reazione di ogni ebreo. Quindi Gesù fa capire ai suoi discepoli che in linea di principio la sua posizione non è diversa dalla loro. Anche lui dice: lascia che prima si spalmino i figli, poi i cagnolini. Quindi c'è una sorta di priorità. Ma subito dopo mostra ai discepoli che la fede di questa donna è molto più grande della loro. Non solo, coglie Gesù in questa donna l'ora di Dio, al punto tale che dopo l'incontro con la donna cananea o sirofenicia per Marco, dopo l'incontro con questa donna, non solo porterà i dodici in modo deciso in territorio pagano, ma compirà il secondo gesto di moltiplicazione dei pani, dove la mensa viene imbandita proprio per i pagani. E allora dietro questo episodio non sta tanto il discorso sulla divinità di Gesù o sul tema della preghiera. Certo, sono due elementi che possiamo cogliere in modo indiretto, come temi, fra virgolette, secondari, cioè che vengono in secondo ordine. Ma il primo elemento è la comunità che Gesù sta cercando di comporre, ed è una comunità dove ebrei e pagani si siedono alla stessa mensa. E secondo elemento, Dio compie i suoi segni nella storia non solo attraverso i discepoli, i credenti, l'ebraismo doc, ma dà i segni della sua storia attraverso anche protagonisti pagani, come questa donna sirofenicia. In questa donna sirofenicia è l'ora di Dio che scatta, l'ora di Dio che apre le porte all'intero mondo pagano. Penso che questo possa essere un invito molto forte, che diventa anche una provocazione per noi. Dio manifesta i segni della sua presenza non solo negli spazi che noi consideriamo sacri, ma ci invita a tenere sempre lo sguardo aperto anche oltre questi spazi, perché i segni di Dio passano ovunque. Ogni persona può farsi portavoce, ogni esperienza può farsi portavoce di quella che è la volontà di Dio. Grazie Loredana per questa tua domanda. Pronto? Sono Francesco Saverio, chiamo da Brunate. Bene Francesco, mi dica. Allora, no, vorrei fare una precisazione secondo me importante. La Madonna non ha mai detto di essere adorata. Il cuore del messaggio di Maggiore è: adorate mio figlio, vostro Dio, pregate, pregate, pregate. Quindi quel messaggio non è mai esistito, le posso assicurare che conosco profondamente i messaggi. Quindi rispetto a quello che diceva quell'ascoltatore, non è mai stato scritto che è lei che vuole adorata. Quindi se ha letto dei falsi messaggi, non sono riportati da nessuna parte. Adorate mio figlio, vostro Dio. Sulle immagini lei vuole l'immagine dei cuori, quello sì, e c'è un'immagine di Maggiore tipica che insomma è abbastanza diffusa, chiama che sia esposta, ma non c'è nessuna statua, non c'è scritto da nessuna parte. Solo per amore veramente di Dio, di precisare, perché non c'è scritto da nessuna parte. Non per passare un messaggio che ha detto che la Madonna vuole adorare, non c'è scritto da nessuna parte in 30 anni. Adorate mio figlio, vostro Dio. Questo è il messaggio di Maggiore. La ringrazio tanto per avermi dato l'occasione di fare questa precisazione. E invito l'ascoltatore a portare il messaggio, se ce l'ha. No, grazie Francesco per questo tuo intervento, perché effettivamente è un elemento da puntualizzare. Non l'avevo puntualizzato all'ascoltatore, ma hai fatto bene a evidenziare, perché su questi aspetti a volte si creano delle confusioni decisamente non opportune. Sono pienamente d'accordo ovviamente con il tuo intervento. Tra l'altro è molto molto bella la figura di Maria che traspare dal Vangelo che stiamo commentando. Vi dicevo quando commentavamo il capitolo 3 che l'unico momento in cui noi abbiamo la menzione di Maria nel Vangelo di Marco è il capitolo 3 e di striscio nel capitolo 6, no? E nel capitolo 3 Maria sembra quasi fare una brutta figura, perché va per prendere Gesù e Gesù praticamente non la riceve. Ecco, a mio avviso questa fotografia che Marco ci dà di Maria è una delle fotografie più belle, perché ci fa capire come Maria è discepola tra i discepoli. Anche lei ha avuto bisogno di tempo, di riflessione, di preghiera, per capire qual era la via che Dio tracciava per suo figlio. E anche per lei non è stato facile subito cogliere come seguirlo. Ma la cosa stupenda di Maria è che di fronte alle reazioni del figlio ha saputo trovare la sua via, discepola tra i discepoli, ha saputo reggere fino in fondo ai piedi della croce e fino al momento in cui poi Gesù la consegnerà a ciascuno di noi, perché ciascuno di noi sia formato da questa stessa madre che ha formato lui al dono grande di sé. Grazie quindi Francesco per la tua domanda. E mi fermo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, quindi il nostro amico di Torino, Salvatore, Maria, Marco, Mario, Luigi, Loredana, Francesco, perché ognuno di voi con il suo intervento ha arricchito la nostra trasmissione. E permettetemi, cari ascoltatori, di affidare alle vostre preghiere una duplice intenzione. Prima di tutto l'intenzione di una coppia giovane che sta desiderando tanto un bambino, non c'è nessun problema, però questo bambino non arriva, allora la ricchezza della parola è anche quella di portare vita, fecondità. Sicuramente il Signore sa il perché di tutto questo e il Signore sicuramente sa donare anche la vita quando Lui lo vuole. E poi una seconda intenzione è quella di un'altra coppia che invece soffre per il proprio figlio, perché il figlio ha fatto delle scelte sbagliate, ha 30 anni, sta creando tanta sofferenza. Quindi due coppie diverse, con due intenzioni diverse tra di loro, ma che si riuniscono, si ritrovano nella nostra preghiera. Ecco, con questa intenzione, abbandonati alla forza della parola che è vita per la nostra vita, saluto ciascuno di voi e vi do appuntamento al prossimo mese, sempre in ascolto del Vangelo di Marco. Un caro saluto e una benedizione a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.